sempre il tuo profumo, seguo lentamente i tuoi movimenti. L'estasi delle tue forme, se si tocca la fortuna di sfiorare la tua intimità, si può scivolare dentro un mondo perfettamente rotondo. Il mondo. Chiudo gli occhi, sorrido e penso che gran culo avere te. Sono sempre nel pallone, ancora voglia di giocare, dare un effetto a rientrare, con tendenza a uscire dalla porta di casa tua e tornare per dimostrare che tutto gira attorno al tuo sedere. Ma che piacere. Chiudo gli occhi, sorrido e penso che gran culo avere te. Che gran cosa averti a fianco, mi fa sentire sempre meno stanco, ma la parte più curiosa è che passa il tempo, ma non è mai da sposa. Sì, è proprio quello che si dice, un bel gioiello senza tempo di allo stampo. Chiudo gli occhi, sorrido e penso che è un gran culo avere te. Chiudo gli occhi, sorrido e penso che è un gran culo avere te. Chiudo gli occhi, sorrido e penso che è un gran culo. Sorrido e penso.